c'è stata una settimana piuttosto complicata con riferimento a situazioni di tensione che si sono verificate all'interno dell'istituto penitenziario bolognese. Il contesto attuale è particolarmente gravato dai numeri che insistono sulla struttura bolognese. Siamo intorno alle 830 persone alla luce di una capienza di 507 posti regolamentari. Quindi in questo contesto qui sovraffollato, quelle che possono essere le problematiche e la puntualità degli interventi sicuramente ne risente. E in questo contesto recentemente per disposizione dipartimentale si è proceduto alla chiusura di un'ulteriore sezione. Una situazione che allo stato comprende tre sezioni detentive chiuse all'interno delle quali non è possibile permanere all'esterno della cella se non nell'ambito della possibilità di recarsi nella saletta della socialità. Alcune di queste tensioni sono nate nella misura in cui in queste sezioni detentive cosiddette chiuse le persone detenute chiedevano l'opportunità di stare maggiormente aperti. Il dato complesso di questi giorni è che si sono accumulate tutta una serie di situazioni di tensione, quindi il personale della polizia penitenziaria è dovuto intervenire talvolta all'interno della stessa giornata in diverse sezioni detentive, dove da una parte magari c'era questa forma di protesta e magari da un'altra parte si erano verificati singoli eventi critici. Il tutto anche aggravato una condizione di sottorganico, diciamo, della polizia penitenziaria alla luce dell'assenza di diversi operatori penitenziari a causa di uno stato di malattia. Un chiarimento, lei diceva appunto tre sezioni sono chiuse anche per effetto delle malattie degli agenti di polizia penitenziaria? No, questo non c'entra, no? Sezioni detentive chiuse alla luce della riorganizzazione dei circuiti negli ultimi anni è stato previsto a livello dipartimentale che venissero chiuse, questo sul carcere di Bologna come anche in altre carceri. Recentemente però rispetto alle due sezioni detentive chiuse è stata data disposizione che ne venisse chiusa un'altra. A titolo di esempio, in una di queste sezioni detentive chiuse alcune tensioni si sono verificate nella misura in cui sono state trasferite da altre carceri extra regione alcune persone che si sono trovate collocate in questa sezione detentiva chiusa in una situazione peggiorativa rispetto al carcere di provenienza. Ho parlato anche con una rappresentanza, no, di queste persone detenute dopo alcuni giorni che era intervenuto il trasferimento presso la casa circondariale di Bologna e appunto hanno rappresentato queste difficoltà. Il sovraffollamento incide anche in questa misura, c'è oggettivamente meno spazio per procedere a spostamenti di persone detenute laddove ci sia la necessità di spostarle anche a seguito di eventi critici o di incompatibilità con le altre persone detenute che si sono create in altre sezioni detentive. Talvolta la convivenza nella stessa sezione detentiva fra persone che hanno una condanna definitiva e anche persone che hanno fatto da poco ingresso in carcere e quindi si possono creare situazioni dove magari il clima di tranquillità non è quello che si aspetterebbero magari, no, le persone condannate in via definitiva. E quella che può essere la prospettiva per provare a fare fronte, no, a questa situazione. Da un lato sicuramente la professionalità degli operatori tutti e anche la generosità di tutti gli altri soggetti che comunque entrano in carcere, quindi con riferimento alla comunità penitenziaria in senso ampio, e dall'altro sicuramente fare riferimento al senso di responsabilità della popolazione detenuta, diffondere una cultura della prevenzione soprattutto degli eventi critici, prendere in carico puntualmente, no, la singola vicenda detentiva, sinergia, dialogo, circolazione coerente delle informazioni e sicuramente, come vi dicevo, dialogo con le persone detenute, no, per comprendere quello che è il contesto di disagio e laddove è possibile trovare forme di riscontro a quelle che sono le questioni da loro poste che, come dire, spesso e volentieri sono ampiamente legittime, forme di dialogo e di mediazione con le persone detenute, questo proprio in un'ottica di prevenzione degli eventi critici. In linea generale c'è comunque il tema del sovraffollamento che invece dovrebbe portare a un alleggerimento? Allo stato, con riferimento al tema del sovraffollamento, c'è grande preoccupazione nella misura in cui se non dovessero intervenire e allo stato la politica nazionale, il governo non sembra minimamente orientato in questo senso, quindi se non dovessero intervenire provvedimenti deflattivi che quindi possano andare a incidere, no, sul numero delle presenze, ci troveremo e ci stiamo trovando comunque sia ad un progressivo aumento dei numeri. Siamo, per quanto riguarda la casa circondariale di Bologna, tendenzialmente in una situazione nel quale sono collocate due persone per cella e laddove si dovesse arrivare ad una situazione nella quale si dovranno collocare collocare tre persone per cella, saremo in una situazione che ha già comportato in passato, no, condanne per trattamenti inumani e degradanti nei confronti delle persone detenute. Nel momento in cui c'è un numero della popolazione detenuta che va ben oltre, no, quella che è la possibilità concreta ed effettiva di poter prendere in carico le singole vicende personali e detentive delle persone, poi ci possiamo trovare in situazioni dove non viene dato con puntualità riscontro a quelle che sono le questioni legittime poste dalle persone detenute, e quindi si creano condizioni per un deterioramento complessivo.